Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, c'è qualche arretrato da smaltire a proposito di derby milanese e di caso Brienza, anche di altro per la verità. Lo facciamo più tardi perché è fioccata molta posta elettronica tra domenica e stamattina. Oggi invece ritorna alle coppe e si comincia ampliando come ogni martedì il panorama e buttando un'occhiata anche in casa d'altri, ovviamente in compagnia di Fabio Tavelli. Fabio, buondì. Buongiorno Gigi. Partirei da Barcellona e da una bruttissima pagina. È vero che sono passati quasi tre giorni, perché parliamo di sabato sera tardi, ma l'Isola Felice spagnola qualche segno di cedimento lo mostra, e l'ha mostrato in particolare nel vecchio stadio del Montjuïc, che tra l'altro credo sia la sua ultima stagione. Esattamente, sì. Derby di Barcellona, molto sentito naturalmente, Spagnol partito bene, Barcellona in ripresa. Piccolo antefatto, raccontiamo come stava andando la partita. Stava vincendo 1-0 l'Espagnol, un gol abbastanza regalato in una partita completamente dominata dal Barcellona. Barcellona sta producendo il suo massimo sforzo. A un certo punto, grosso modo intorno al 25esimo del secondo tempo, parte un bengala dal settore ospiti, in questo caso, cioè dei tifosi del Barcellona, e va a finire in un altro settore dello stadio occupato da altri tifosi che potevano essere di qualsiasi fazione, insomma era comune cittadini che erano lì a vedere la partita. Questo che tra l'altro ad altre latitudini non voglio dire che sia una normalità, perché non è vero, ma insomma è un gesto che non è abituale in Spagna, men che meno in questo periodo. Ovviamente Medina Cantareco ha interrotto la partita. Il gesto in sé avrebbe potuto essere circoscritto immediatamente. Quello che però è strano poi è stata la rabbia dei tifosi dell'Espagnol, che hanno cercato di entrare in campo e tra l'altro in un settore anche abbastanza distante da quello dove è piovuto il bengala, perché il bengala è piovuto sui gradoni superiori, e invece qualcuno ha tentato di entrare in campo riuscendoci, peraltro, perché evidentemente le protezioni non erano particolarmente difficili da abbattere. Forse gara non se lo aspettavano. Esatto, gara sospesa per una decina di minuti, calma apparente rientrata, Barcellona poi pareggia con Henry, un gol abbastanza fortunoso, segna un rigore al 112esimo minuto, perché poi ovviamente la partita ha avuto un recupero lunghissimo, rigore probabilmente nemmeno c'era. A quel punto la gioia dei giocatori del Barcellona, che è appunto la gioia di chi ha vinto in maniera ormai insperata, insomma il Barcellona rischiava di perdere una partita che strameritava di vincere, esultanza da parte dei giocatori del Barcellona e accuse nemmeno troppo velate da parte di quelli del Spagnol, dirigenti e giocatori, insomma che questa esultanza dei giocatori del Barcellona verso il settore ospiti, cioè il settore dei tifosi del Barcellona, sia stata eccessiva e che abbia quasi una sorta di giustificato gli episodi di prima, questa sorta di, non lo so, connivenza, condivisione di intenti tra i giocatori e i tifosi che si erano macchiati di quei fatti, ha fatto sì che insomma in Spagna un po' ne parlino. 5 arrestati, altri in attesa di esserlo, perché le telecamere a circuito chiuso hanno ripreso, pare, molto bene gli autori di questo fatto. E anche un po' di polemica in tribuna, la porta molto nervoso nel momento in cui la partita è stata sospesa, e certamente il segno di un periodo non particolarmente tranquillo in Spagna. Ovviamente va dato conto di questo, perché settimana scorsa avevamo fatto gli applausi al pubblico dello Sporting Gijón, questa volta il cartellino giallo-rosso. Già il famoso cartellino arancione che ogni tanto qualcuno riscopre. È un gruppo, questo dei Boys of Noise, non so se si leggono così. Ecco, che insomma, è l'unico gruppo violento della tifoseria del Barcellona. Sì. E tra l'altro mi pare di aver letto che quando arrivò la porta nel 2003 a Barcellona, una delle prime cose che fu spezzare i legami con questo gruppo oltranzista. Ora, il fatto che poi i giocatori invece abbiano indugiato così a lungo sotto questi da queste parti e che non sia piaciuto agli Spagnol, insomma, quasi integra un conflitto interno, no, tra giocatori e presidenza. È molto difficile per i giocatori, perché anche in Italia ci sono addirittura squadre che hanno due curve che cantano non insieme, la tifoseria organizzata tante volte fa sì che poi per i giocatori ci sia l'obbligo di andare a salutare quelli della gradinata, quelli della curva, quelli dei distinti, e se non ne saluti un gruppo, questi poi certo. Si offendono, vengono all'allenamento ad aspettarti. Certamente non è facile. Io che non ho giocato a quei livelli non posso pensare compiutamente a quello che passa per la testa di un giocatore che gioca 100 minuti e vince al 90 e rotti e per un rigore che magari non c'è, un derby, una partita sentiti, non lo so Gigi. Vero. Noi qui stiamo parlando, è martedì e siamo qui tranquilli, riposati, sì, non sudati. È vero Fabio, però è anche vero che stiamo parlando di campioni e in qualche caso di campioni di grande caratura, no? Stiamo parlando di Messi, stiamo parlando di Messi è un ragazzino, stiamo parlando di Henry, cioè di giocatori anche maturi. Beh, io credo che insomma, dopo che una tifoseria ha lanciato dei razzi, comunque ha creato una sospensione di partita così lunga, che okay, si possa anche andare a esultare a metà campo, tra l'altro per un rigore che non c'era, no? Volendo. Sì, sì. Non ci sia questo, sì, giustamente, poi magari ci sono delle conseguenze nei rapporti, però è anche vero che volendo si potrebbe, comunque insomma non stiamo a farla lunga, rimane il fatto che in Spagna qualche segno di scricchiolio ambientale c'è, insomma. Sì, comincia a esserci. Anzi, per chi osare, polizia sotto accusa per aver gestito con estremo ritardo per i loro parametri, perché dipende sempre da che punto dell'angolo la guardi la vicenda. Per i parametri spagnoli la polizia è sotto accusa per aver agito troppo lentamente, troppo passivamente, soprattutto nella gestione degli steward e poi della polizia quando i tifosi delle Spagnole hanno voluto entrare in campo. D'altra parte, per i parametri della polizia italiana è sotto accusa quella di Catania, perché erano solo 18 i tifosi del Chievo presenti domenica a Catania, aveva regolarmente perso, conoscendoli è da escludere che avessero minimamente provocato, anche perché non gli appartiene, ma su 18 ne hanno picchiati o comunque aggrediti 18, cioè hanno fatto la percentuale del 100% e la polizia non li ha minimamente protetti nella loro uscita, tant'è vero che è arrivata puntuale l'aggressione, che poi adesso ci si palleggia tra forze legate al tifo organizzato o delinquenza comune, fatto sta ed è che 18 su 18 tifosi del Chievo dopo la sconfitta di Catania domenica sono stati aggrediti. Restiamo all'estero e prima di atterrare poi sulle coppe, che è il vero argomento di giornata, mi pare che a proposito di grandi allenatori che migrano da una nazione all'altra e che stentano, e qui ovviamente ogni riferimento italiano è prematuro, non lo è affatto se guardiamo in casa del Tottenham, perché la storia di Wander Ramos comincia a essere incredibile proprio. Sì, è pazzesco, perché il Tottenham è una squadra, poi per carità, una squadra che lascia andare via Berbatov e Keane in pochi giorni, è molto difficile da rinforzare. È vero che Wander Ramos è arrivato l'anno scorso per un declinante Martignol, sembrava aver trovato già comunque l'anno scorso, non dico una formula magica, ma qualcosa che faceva sperare ai suoi tifosi di aver finalmente trovato un allenatore per guidarli ad essere quantomeno in zona europea molto nobile, e invece il Tottenham è un disastro assoluto, segna pochissimo, prende un sacco di gol, è inspiegabile, ed è soprattutto inspiegabile come quando Ramos, adesso che ha avuto la possibilità di lavorare tutta estate su questa squadra, non riesca a trovare assolutamente una medicina per una partenza che è pazzesca. Il Tottenham è ultimo in classifica, a me ricorda un po' quello che è successo al West Ham tre anni fa, cioè una squadra che in un amen prende Tevez e Mascherano e si è salvata all'ultimo minuto dell'ultima giornata. Può succedere, però certo è abbastanza strano, perché quando Ramos è da tutti conosciuto come un allenatore molto capace, molto bravo, uno dei pochi allenatori che si vede immediatamente quando lavora su una squadra, perché poi i suoi concetti i giocatori li applicano, e insomma evidentemente succede qualcosa che anche per noi è davvero molto difficile figurarsi se non ci riesce lui, figurarsi noi come possiamo. Le prossime due forse non le sai, perché sono appena uscite dalle agenzie. La prima è che Diego Tristan sta facendo un provino al West Ham, l'ha voluto Zola per tutta la settimana per decidere un eventuale ingaggio, visto che uno dei suoi attaccanti è infortunato abbastanza lungo. L'altra, sì, esatto, l'altra più curiosa è che in una biografia In un libro appena scritto da David Davis, ex direttore generale della Federazione Inglese, c'è scritto che Eriksson voleva a un certo punto naturalizzare Cudicini per farlo giocare nella nazionale inglese, e che il progetto fu bloccato da Ray Clemens, tecnico federale, per evitare una sollevazione di portieri inglesi. Ray Clemens, ex grande portiere. Ex grande portiere, certo. Sì, non è inedita, però è una conferma importante, anche perché se gli inglesi avessero avuto un portiere decente, probabilmente, ma forse non avrebbero vinto dei mondiali, però avrebbero fatto qualcosa di più nelle ultime edizioni dei mondiali. Io credo che siano strade da non percorrere, da non incoraggiare, ed è meglio non pensarci nemmeno. Però è vero perché Cudicini ormai è perfettamente integrato nel sistema inglese ed era uno che nel momento più alto della sua carriera era certamente più bravo dei vari portieri inglesi che sono succeduti in porta. Arrivando al Bayern significa la giunzione con le coppe. Perché? Perché il Bayern è oggettivamente in crisi nel campionato tedesco. Stasera mi pare che Bayern Lione e Zenit Real Madrid siano un po' le due partite clou. Partiamo dai tedeschi. Partiamo dai tedeschi per dire intanto che potrebbe essere la sera del ritorno in campo di Frank Ribéry, e questo anche da un punto di vista ambientale, psicologico. Potrebbe essere una spinta importante perché il Bayern di Monaco ha perso anche la scorsa settimana ad Hannover, viene da una sconfitta pazzesca che abbiamo già raccontato in casa col Werder Bremen. Klinsmann rimane lì perché il Bayern di Monaco è una società molto seria ed è una società che non manda via l'allenatore a settembre, ed è una società che si è spesa molto per far tornare Klinsmann, e quindi probabilmente bocciandolo vorrebbe dire autobocciarsi, e quindi ok. Però è certamente uno snodo importante, perché il Bayern di Monaco ha vinto con la Steaua la prima partita, quindi i suoi tre punti li ha già presi. Il Lione è una squadra che è in campionato, ormai ha già 5 punti sulla seconda, quindi è abbastanza in buona rotta di navigazione. È a rischio Juninho Pernambucano, che già nelle ultime due partite della Ligue 1 non ha giocato, probabilmente anche per riservarsi un po' per questa partita. È evidente che nel momento in cui dovessero vincere la Fiorentina e il Bayern di Monaco, cioè il Lione andrebbe pesantemente in difficoltà, quindi è una gara che ha già quasi un sapore di un ottavo di finale. L'altra gara tra lo Zenit e il Real Madrid, intanto è interessante perché è unica, nel senso che la si può vedere alle 18:30, quindi dà la possibilità di svincolarsi dalle italiane e di vedersi una partita in più. E chi è già a casa quell'ora potrebbe anche dedicarci. È un bel antipasto. Credo che sia un bel antipastino. Venendo alle squadre italiane, farei ancora una piccola parentesi per un giocatore italiano che debutta stasera, mi pare, in Champions League con il Villarreal, e che si chiama Giuseppe Rossi, in attesa forse di debuttare con la nazionale di Lippi tra pochi giorni nel doppio impegno contro Bulgaria e Montenegro. Ha ritrovato la forma, mi pare. Sembra che non l'abbia mai persa. Lui ha ogni tanto qualche problema di infortunio, ma quando gioca questo ragazzo segna sempre, quindi è veramente un grande, grande, grande patrimonio del calcio italiano. Ha la sfortuna di essere visto di meno, ovviamente, perché gioca all'estero in un campionato che si vede in televisione, ma diciamo che il Villarreal, che pure è prima in classifica, che pure non è una squadra una squadra di parvenu, cioè una squadra che ha già una sua solidità, è una squadra che ha fatto una semifinale di Champions League perdendo contro l'Arsenal, sbagliando un rigore con Riquelme che avrebbe potuto qualificarla, quindi insomma è una squadra che qualcosa ha fatto negli anni 2000. Ebbene, insomma, Giuseppe Rossi credo che sia uno che sul taccuino di Lippi è segnato col circoletto rosso, e che grazie al cielo sia finita l'epoca che quelli che andavano all'estero venivano dimenticati. Insomma, basta pensare una coppia di attaccanti formata da Luca Toni e Giuseppe Rossi, insomma, due emigranti di stralusso, credo che non sarebbe piaciuta moltissimo a Bagnoli come miscela, no? Di caratteristiche diverse, ma integrabili almeno in teoria alla perfezione. Sì, un'Aguilera scura, un Elkier. Perfetto, proprio Elkier Galderis, proprio così. Sì. In attesa di sentire cosa ne pensano direttamente la loro viva voce, Ranieri, Del Piero e poi Prandelli, eccetera. Per esempio, che squadra è sto Bate Borisov dove gioca la Juve stasera? Ma la squadra Gigi, tanto non gioca nel suo stadio, quindi ti dimostra quanto sia una squadra di non grande struttura. Loro hanno questo Rodionov, che è un attaccante che gioca abbastanza da solo là davanti, e che una difesa normale, soprattutto se Chiellini torna ad essere Chiellini, dovrebbe controllare abbastanza tranquillamente. Deve stare attenta la Juventus a non farsi infilare, perché sono abbastanza veloci Rodionov e un paio d'altri. Tutto sommato loro hanno, non è neanche un 4-4-2, perché non gioca mai con due punte e batte Borisov, per cui credo sia una squadra che ha come massimo obiettivo quello di prendersi un punto, e cioè di non perdere. Insomma, tutto sommato la partita la farà fare completamente alla Juventus, quindi aspettiamoci certamente un po' di freddo, perché in Bielorussia caldo non fa, no, e per il resto una gestione della partita quasi completamente nelle mani della Juventus, che ha bisogno di trovare dei gol, però, perché insomma negli ultimi due passaggi ha segnato un solo gol contro il Catania e non ne ha segnati contro la Sampdoria. E la sensazione, ascoltando le parole di Ranieri, poi adesso tu le farai riascoltare, sono per una coppia Iaquinta Del Piero, quindi non per un tridente. Sì. Oh, ci resta la Steaua, o meglio la Fiorentina nel rapporto con la Steaua. Allora, la Fiorentina è certamente partita molto meglio a Lione di quanto in Coppa, di quanto non sia partita in campionato. È anche vero che quelle beffe, che poi si traducono anche in punti persi, pesano, ed è anche vero che la Steaua, già battuta all'andata, mi pare, sì, dal Bayern, all'andata nella prima serata dal Bayern, beh, insomma, comincia a dover far punti per forza. Sì, la Steaua, sì, devo dirti che, ecco, a differenza del Cluj, questa è una squadra molto più romena, è una squadra meno innervata di stranieri, ne ha, ma meno rispetto al Cluj, che praticamente non ne aveva, ed è una squadra di tipico stampo romeno un po' antico. L'allena Lacatus, che qualcuno ricorderà con quell'improbabile caschetto. Certo. A Firenze Lacatus è stato un giocatore importante, al di là che poi a Firenze non lo ricordano con grande, insomma, ha fatto una ventina di partite in un anno, due o tre gol. Lacatus però arrivò da grande giocatore, perché quella era una grande Romania, era una Romania grande che poi non ha vinto nulla, però comunque era una Romania che giocava un calcio accettabile, un calcio importante. In Romania si faceva tanta fatica a far risultato. Direi che una Fiorentina normale, la stessa Fiorentina nella prima mezz'ora, primi 20 minuti della partita col Genoa di sabato, credo che possa vincere, non dico in carrozza, ma insomma abbastanza bene. Dopodiché ci prepariamo, questo è il menù di stasera, poi ci sarà tempo per annunciare quello di domani, anche se sin da ora non tanto Inter-Werder, che insomma, in un girone del genere non credo possa rappresentare comunque vada un problema per l'Inter, quanto per la Roma la trasferta di Bordeaux a sto punto è già certamente decisiva per il futuro. Certamente sì, perché il Bordeaux è partito male, nel senso che ha perso la prima partita, ed è una squadra che anche in campionato non è che stia incantando. L'allena Laurent Blanc, è una squadra che invece l'anno scorso ha conteso fino alla fine il titolo a Lione, e già in Francia questo è un risultato. Credo che abbiano un po' di problemi, cioè nel senso che Blanc stia ancora cercando di capire se sia meglio un modulo con Chamakh e Kavenaghi o soltanto con Chamakh. Kavenaghi è un giocatore che l'anno scorso gli ha veramente cambiato la stagione, perché è stato un momento che ha fatto tipo 11 gol in 8 partite. È un giocatore certamente di estro, è un giocatore che io in casa non rinuncerei mai. C'è anche una vecchia conoscenza, quasi una meteora del campionato italiano, come Menegazzo. Ed è una squadra che una Roma normale potrebbe tranquillamente battere. Una squadra che invece, se trova una serata buona, i girondini poi in casa sono sostenuti da un grande pubblico, lì poi è un periodo, tu conosci bene, un periodo di vendemmia, un periodo di grandi feste, un periodo importante per chi sta a Bordeaux, e quindi credo che ci terranno a fare molto bene. Una Roma, ripeto, una Roma da 6,5 non perde certamente a Bordeaux. Se sta sotto i 6,5, secondo me rischi. Può rischiare. Lo vedremo. Grazie a Fabio Tavelli. A voi, ciao. Grazie. Chiudiamo questo collegamento. Il panorama mi pare sia stato più che esauriente. Lo completo con il programma di stasera. Allora, alle 18.30 dicevamo Zenit Real Madrid, e poi alle 20.45 Radio Canonico, Aalborg Manchester United, Villarreal Celtic, Bayer Lyon, Arsenal Porto e Fenerbahce Dinamo Kiev. Ovviamente Fiorentina Steaua e Bate Borisov Juventus, ma questi sono sottintesi. E tra poco, vi dicevo, magari ormai nella seconda parte del programma sentiamo le voci della vigilia bianconera e viola. Adesso i primi ascoltatori di oggi, che sono per esempio Marcello da Roma. Buongiorno. Buongiorno a lei. realtà. Devo fare due punti di premessa, perché sennò non è comprensibile il mio intervento. Il primo è che non sono, ahimè per voi, un appassionato di calcio, né tantomeno tifoso. Il secondo è che, ciò nonostante, la sua correttezza e il suo equilibrio nella conduzione, negli interventi e quant'altro, fanno sì che, nonostante non ami questo sport, la ascolti abbastanza spesso in macchina. Questo è un grande complimento, di cui la ringrazio. Niente, è dovere, è oltre che piacere. La cosa che mi ha, proprio per questi motivi, la cosa che da una parte mi è facile fare questo intervento perché non sono coinvolto, dall'altra parte proprio la stima che ho nei suoi confronti e il suo equilibrio, mi hanno lasciato un po' perplesso la non distanza, la non condanna assoluta nei confronti di quel fenomeno che viene definito espressioni più o meno condannabili della tifoseria. Io li chiamerei delinquenti, perché sarebbe il caso di cominciare a dare i nomi giusti alle persone che si comportano in certe maniere, lanciando il bengala in occasione di questa partita del Barcellona. Mi scuso se non sono poi puntuale, perché ripeto, non amo questo sport e non lo seguo. E la cosa che mi ha lasciato perplesso e mi ha fatto riflettere è proprio che questa non condanna, questa non prendere distanze, questo non definire le cose per come sono, in realtà non è altro che, come dire, dare l'immagine che tutto sommato si può anche fare, al di là del fatto che poi vengano presi o meno. Mi ricordo, tantissimi anni fa, ci fu un tifoso, credo, della Lazio, che morì proprio per un razzo lanciato dalla... Era il 77, era Paparelli. Marcello, mi scusi, l'intervento sta diventando un tantinello lungo, perché ci sono altri ascoltatori in attesa, perché siamo vicini agli aggiornamenti dei mercati e lei sa che giorni siano questi per i mercati, e quindi quanta attesa ci sia per gli aggiornamenti in una borsa che cambia segno praticamente ogni quarto d'ora. Non so, si vede che non siamo riusciti a farci capire, né Fabio Tavelli né io, perché credo che la condanna, per quel che può valere, per un gesto di questo genere sia automatica, sia persino sottintesa, e quindi... Quindi non ho capito bene, ma certamente siamo, allora, noi che non ci siamo fatti capire sufficientemente. Forse c'era più, e questo lo posso riconoscere, c'era forse più stupore, perché siamo abituati da anni a Norum che in Spagna questo genere di cose sono bandite, cioè nemmeno ci pensano, non solo non le fanno, e quindi vedere di colpo un razzo che cade su un settore molto popolato in uno stadio, sinceramente è stata una sorpresa, oltre che uno shock, e poi oltre che un gesto, prima ancora di un gesto altamente condannabile. Grazie. Tre messaggi per ripartire. Il primo, Alberto, Vicenza: perché Lippi, oltre a Rossi, che sarebbe un suicidio non convocare, non chiama Maresca? Ci sono ancora troppi figliocci. Sì, e ci sono anche un paio di parole eccessive in questo messaggio, insomma, suicidio non esageriamo. Credo che Lippi abbia come intendimento quello di mettere insieme il più in fretta possibile i punti che servono alla qualificazione al mondiale, e poi lentamente, o forse nemmeno troppo lentamente, cominciare a innovare la squadra. Maresca non so, perché Maresca, credo che Lippi l'abbia avuto, comunque l'ha conosciuto o ne ha sentito parlare bene alla Juventus, se non ha probabilmente un ottimo ricordo, e questa è un'opinione sua legittima, anche se Maresca sta facendo molto ma molto bene a Siviglia, molto molto bene, ma un po' intermittenza, come già era un po', era forse la sua caratteristica. Sergio da Milano. Sergio, tassista di Milano, domanda, dice: abbiamo già visto Quaresma da qualche partita, lei che idea si è fatto? Ma per adesso mi sono fatto l'idea di Coco, così a grandi linee, però insomma è un'idea che non può che migliorare dato l'investimento. Poi c'è la domanda sulla vendemmia, vabbè, ma di questo parleremo più tardi. Fedele ha chiamato da Verona, buongiorno. Buongiorno dottore, che vedessimo Dica. Quaresma all'Isola dei Famosi mi lascia un po' perplesso, perché secondo me, parlo da interista, è un campione. Però quello che le volevo dire è togliermi quel sassolino dalla scarpa che ho da mercoledì nei suoi confronti, sì. Dove lei ha parlato, ma veramente molto male, di tale Guico Ecea. Semplicemente, fra virgolette, semplicemente lo sono d'accordo con lei, naturalmente, che ha fatto, perché randellava, ha fatto del male a Schuster, ha fatto del male a Maradona, ma era un grande per l'Atletico Bilbao, era una bandiera. Augurare del male perché allena male l'Hercules, o perché, non mi pare proprio sportivo, anche perché poi nella stessa puntata di mercoledì lei ha tessuto, non so se si può dire, scuso l'italiano, le lodi a tale Tassotti, che se ben ricordo è forse uno di quelli che randellava di più. La sua gomitata, quel calciatore spagnolo, e l'agitazione mi fa perdere il nome, chiedo scusa, era probabilmente stato l'atto antisportivo più criminale, Luis Enrique, giusto? È stato l'atto sportivo più brutto che abbia visto in vita mia, di un'antisportività che penso che neanche tre gambe di Maradona erano così antisportive. Ma non dica idiozie, Fedele, non dica idiozie se è possibile, se è possibile. Mi scusi, i paragoni sono sempre difficili in questo caso, però lei non può confondere un gesto di rara antisportività come quello di Tassotti, allora sono completamente d'accordo. Ma chieda a qualsiasi giocatore se preferisce ricevere una gomitata per quanto violenta in faccia o vedersi spezzare tibia e perone, no? Partita lì, proprio quella partita lì del Bilbao contro il Barcellona, cioè erano 20 minuti che continuavano a beccarsi. Adesso io non voglio difendere quel coach, che ma lei ha visto quella partita, Fedele? Sì, la fanno vedere spessissimo su ESPN Classic, ma la faranno vedere 4-5 volte al mese. Mm-hmm. Ed è da vedere, secondo me, perché fa capire molte cose. Ma se lei poi torna indietro col tempo, i vari Bagni, i Oriali, lo stesso Adriano Fedele che porta il mio nome, e tanta altra gente, quella è gente che randellava, cioè gente che il fatto che abbia mai rotto le gambe a qualcuno. Da randellare a rompere gambe e a vantarsi come poi è accaduto purtroppo, di essere un collezionista di scalpi importanti come quello di Schuster prima e di Maradona poi. Ma io quel giorno, a mo' di battuta, mica gli ho augurato nulla che riguardasse la sua salute, per l'amor di Dio. Cioè, ho soltanto detto che il fatto che recentemente avesse avuto disavventure da tecnico mi amareggiava entro certi limiti. Questo posso aver detto, non di più. E se vuole lo ripeto. E in questo non c'è nessuna antisportività, perché io credo che i macellai debbano continuare a fare macellai, se non fanno gli allenatori è molto meglio, anche perché l'allenatore ha anche una funzione, deve avere anche una funzione educativa. Non riesco a capire che cosa un macellaio come Goicoechea possa insegnare a dei ragazzi, a dei giovani. Da Bari ha chiamato Lorenzo, buongiorno. Buongiorno. Dica. Il mio intervento si ricollega non tanto al derby, perché insomma ritengo che come tutti i derby poteva vincere chiunque. Poi questa è un'opinione mia, perché ne ho visti un po' tanti di derby, non solo di Milano, ma in riferimento a una espressione che ha usato lei ieri, a mio giudizio tantino pesante, nei confronti di Moratti, quando nel corso di un intervento di un vostro ascoltatore che ha telefonato, mi è parso, sottolineo mi è parso, per questo le chiedo di magari spiegare meglio la situazione, che lei avesse detto che Mourinho, che non è un fesso, questo, sia riuscito in qualche maniera a far sì che Moratti spendesse 50 milioni poi alla fine, perché era d'accordo con quell'ascoltatore che non arriva a fine anno. Lei si è dimostrato abbastanza d'accordo. Ora, io sono un estimatore di Moratti, non tanto perché tutti quelli che operano, perché solo chi non fa nulla non sbaglia mai, ma come tutti quelli che operano, i suoi errori li ha fatti. Alcuni errori li ha fatti in un'era moggiana dove succedevano cose strane, quindi probabilmente senza il Moggi di turno lui e chi per lui sarebbero andate diversamente le cose. Cioè, però, lei sostiene, è un tantino pesante. È una tesi ardita quella di sostenere che se non c'era Moggi potevano andare diversamente i campionati. Se non c'erano Moggi, magari non faceva collezione di brocchi come a un certo punto c'è stato, è una tesi un po' più ardita, Lorenzo, non crede? Guardi, perché si può dire, il calcio non è una scienza esatta. No, questo no. Possiamo dire tutto quello questo che vogliamo. E allora, però, insomma, dire che Moratti si faccia così prendere in giro da Mourinho. Poi le concludo il mio intervento per non dilungarmi. Mourinho si trova all'Inter solo ed esclusivamente perché Mancini ha fatto quella baggianata dopo il Liverpool. Certo. Altrimenti Mancini sarebbe andato avanti ancora qualche anno. Certo. Quindi, certo. Sicuramente era uno dei migliori delle persone che ha vinto qualcosa, libero. È compatibile, voglio dire, probabilmente con Moratti, perché ci avrà pur parlato qualche volta. Lorenzo, certo, indubbiamente sì, non, però anche in questo caso non mi attribuisca delle cose che non ha detto. Un ascoltatore ha azzardato una battuta dicendo ha messo qualcosa del genere, ha messo in un concesso, oppure scommetterebbe con me che non ricordo che Mourinho non arriva a fine stagione. Non mi ricordo esattamente, le ripeto, perché poi quando si è qua in diretta si va un pochino in apnea, ma insomma il concetto poteva essere che questo è il momento di risparmiare, di stare attenti agli azzardi, agli investimenti, sicché magari mi guardavo dal fare questa scommessa, ma da lì a pensare che credo che il tasso di permalosità del tifoso sia sempre abbastanza alto. Allora, un ascoltatore ancora e poi finalmente tutte queste voci che abbiamo che abbiamo registrato e che vorrei mandare in onda. Marco ha chiamato la Lecco, buongiorno. Lei in che cosa si è sentito ferito? Volevo solo dire una cosa, mi ha preceduto il nostro amico tassista di Milano. Sì. Io sono un tifoso interista e sono molto deluso di Quaresma. Ecco, sono spesi 20 milioni di euro per comprare questo giocatore così insistentemente voluto da Mourinho, ma mi sembra che il rendimento sia veramente bassissimo, scarsissimo, di sotto delle aspettative. Secondo lei Garanzini, che è sempre così imparziale nei giudizi, non vedrebbe un tandem a Stankovic, Bigo e Quaresma in panchina utilizzato solo per la Coppa Italia? Ma io le dirò che vedrei Balotelli innanzitutto. Se ci sono due giocatori oggi sottovalutati in Italia, un po' trascurati, oggi, poi mi auguro domani non più, sono Giovinco e Balotelli, o Balotelli e Giovinco in ordine alfabetico. E mi pare che da questo punto di vista ci sia una responsabilità di scelte, sia ben chiaro, abbastanza evidenti da parte sia di Ranieri che di Mourinho. Poi, a proposito sempre dell'ascoltatore barese di prima, vagamente permaloso, direi che il difensore d'ufficio di Moratti, che non mi pare abbia bisogno di difensori d'ufficio perché non gli mancano, certamente. Posso aver detto che Mourinho quest'anno è stato accontentato in tutto e che due ali come Quaresma e Mancini, che sono costate complessivamente una quarantina di milioni di euro, sempre non per fare i conti in tasca agli altri, ma insomma, viste anche le voci che girano sulla Saras, magari potrebbero essere conti che prima o poi potrebbero avere un senso. Una quarantata di milioni di euro per due ali così la trovo cara, ecco, però potrebbe essere un'opinione. Questi due più Muntari, direi, sono andati a rimpiazzare giocatori che si chiamavano Solari, no? Così vado a memoria, Solari, Maniche e forse Cesar. Beh, direi che il saldo di spesa supera i 40 milioni di euro, se mettiamo, o forse i 30-35, tutte queste cose. Dato che la rosa che aveva a disposizione Mancini non era esattamente una rosa da infelici, ecco il discorso e la valutazione di ieri, tutto qua. 14:44. Allora, cominciamo a sentire qualche voce e partirei da quella di Mutu, perché insomma è un giocatore simbolo della Fiorentina, ma negli ultimi tempi forse un po' meno simbolo, vissuto come tale anche da Prandelli. Sentiamo. Sicuramente un'emozione, perché la prima volta quando incontro una squadra rumena ufficialmente, quindi un po' emozionato lo sono, però rimane tutto lì e sono pronto, come diceva anche mister, siamo tutti pronti per affrontare in modo giusto questa gara e per vincerla. Io conosco più i giocatori che il gioco della squadra, però quello che dobbiamo essere noi, dobbiamo essere la Fiorentina, che è giocare come l'abbia dimostrato questi anni, e quindi se lo saremo così non c'è niente da preoccuparsi. Non ero arrabbiato per la sostituzione, cioè principalmente perché io comunque, mister lo sa, mi arrabbio sempre quando mi sostituisce, è normale, perché c'ho tanta voglia di giocare e vorrei sempre giocare, ma a volte non è sempre possibile, quindi ero più arrabbiato perché c'era una punizione, però volevo battere, lo volevo segnare, però poi mister mi ha spiegato che aveva già fatto e quindi niente, siamo tranquilli. Mutu ha presentato un vino da lui prodotto e griffato insieme a un socio di Prato, si chiama 10, è un bianco di Bolgheri e poi c'è un rosso di Massa Marittima. L'ha presentato in un ristorante di proprietà di Dainelli, capitano della Fiorentina, in un paesino vicino, in paesino in provincia di Pisa. Non è finita qua, perché sul mercato Mutu sta per lanciare anche un super Tuscan che si chiamerà Linchino. ispirato dal suo modo di festeggiare un gol. Mi sa che nemmeno oggi c'è tempo per tutte le mail arrivate, perché vedo un display pieno di ascoltatori e ci sono ancora voci da ascoltare. Vorrei dire che domani vareremo una sorta di rubrica di posta insieme, per la verità, ad un ospite che ha già accettato di essere con noi domani e che anticipo con particolare piacere, perché si tratta di Ballardini, il tecnico bravissimo, a parere mio, bravissimo con tutti i superlativi del caso, tecnico del Palermo. Intanto ripassiamo la storia con Nicola Filippone. Sembra ieri. 30 settembre 1990. Giornata memorabile per la Ferrari sul circuito di Jerez de la Frontera. Nel Gran Premio di Spagna, terz'ultima prova del Mondiale, le rosse si piazzano sui due gradini più alti del podio. Il successo va ad Alain Prost, seguito da Nigel Mansell. Ed è una corsa all'insegna dell'Italia, visto che al terzo posto si piazza Alessandro Nannini su Benetton. Dopo l'exploit di Jerez de la Frontera, però, bisognerà attendere 8 anni per assistere ad un'altra doppietta Ferrari. Il digiuno verrà spezzato a Monza il 13 settembre 1998, quando Schumacher si aggiudicherà la corsa davanti a Eddie Irvine. Torniamo agli amici già collegati. C'è un lungo comunicato del Catania Calcio, redatto probabilmente dallo Monaco in persona, in risposta a un comunicato di protesta del Chievo Verona dopo il ferimento di l'aggressione a quei 18 su 18, ripeto, percentuale 100%, tifosi del Chievo presenti domenica allo stadio. Non li leggo perché quello del Chievo, se leggo quello del Chievo, bisognerebbe leggere anche l'altro. Quello del Chievo porterebbe via sobriamente e giustamente una quarantina di secondi, quello del Catania un paio di trasmissioni. Quindi Luigi D'Ascoli. Buongiorno dottor Garanzini. Mica. Due brevissime considerazioni. Sì. Innanzitutto sono d'accordo con lei sul gol che c'è, in quanto al di là dei fatti eclatanti che vengono poi riportati quasi giornalmente sulle televisioni, era un giocatore che normalmente giocava a far male, contrariamente ad altri notissimi, come lei ricorderà, ahimè, Styles dell'Inghilterra, Benetti, eccetera, eccetera. Poi volevo fare un'altra considerazione circa il derby di Milano. È stato un bel derby, io sono interista, abbiamo perso. Il gol, a mio avviso, lo ha segnato Kakà con quella pennellata notevolissima. Ed infine, una piccola chicca: ieri lei parlava con un ascoltatore sugli ingaggi. La somma non può dare. Pronto? Dica. La somma non può dare gol, l'ingaggio. Vero è però che l'ingaggio può dare un comportamento al giocatore che è assolutamente soggettivo. Mi riferisco sempre alle continue proteste e alle espulsioni di Materazzi. Non è un comportamento da uno che piglia qualche miliardo. Io la ringrazio della sua pazienza. Grazie a lei, Luigi. Dunque, ascoltiamo la vigilia di Ranieri, la vigilia di Bate Borisov Juventus. Per il momento non ho pensato al tridente. Però poi non, nulla, lo sapete come la penso, nulla poi è mai lasciato al caso. Insomma. A Ranieri la squadra a 3 punte piace. Abbiamo visto anche l'Italia, no? Di Lippi gioca con Camoranesi largo, per cui allora sto giocando con molte punte. La squadra ha bisogno di equilibri, prima di tutto. E il tridente va fatto quando è il momento giusto di farlo. Non bisogna chiamare il tridente solo perché magari non si riesce a far gol. Ci sono degli equilibri che vanno analizzati bene, c'è l'avversario che va analizzato bene, poi dopo tutto è opinabile. Dopo Ranieri ascolterei anche la vigilia del tecnico della Fiorentina, che è quindi la voce di Prandelli. Tutte le partite a questo livello sono partite difficili, quindi devi arrivare preparato e convinto che ci saranno dei momenti dove ci sarà da soffrire. Voglio vedere una squadra compatta che lo fa, però abbiamo anche la convinzione di poter fare la partita. Questi 3 anni la squadra ha sempre dato dimostrazione di avere carattere, determinazione e voglia di non perdere le partite. Beh, insomma, Prandelli negli ultimi tempi ha cambiato un po' atteggiamento, mi pare che dalla carota sia passato con maggior frequenza al bastone. Si vede che qualcosa nel rapporto, e poi lo si è anche capito, è filtrato, insomma, qualcosa nel rapporto tra vecchi e nuovi a cominciare da Mutu, non lo ha convinto e non gli è piaciuto. Da lì il cambio di testimone, no? Appunto, dal bastone a quell'altra, dalla carota al bastone. C'è in linea Vittorio, chiamato da Parma, buongiorno. Buongiorno signor Gigi, io sono intervenuto, cioè volevo intervenire per quella cosa che ha detto quel signore di Verona. Io non ho nessuna intenzione di difendere lei, ci mancherebbe altro, non ha bisogno certo di me. Però ci sono rimasto male perché se davvero ha visto quattro volte quella partita lì in un mese, può rendersi conto di un uomo che prende una rincorsa, ha tutto tempo di pensare a quello che sta facendo. E poi è palese ma entra per spezzargli una gamba, si capisce, ma io ne ho non, Enrico, io la ringrazio di questo, però sinceramente quando, cioè, questo non so, evidentemente gli piace il kung fu, gli piace il wrestling, non può essere un appassionato di calcio uno che a distanza di 25 anni tra l'altro ti fa una tirata del genere per Goicoechea. Cioè Goicoechea rappresenta il male del calcio, no? Così come è uno che ha rischiato di non farci vedere giocare Maradona, le pare? Mi spiace, è caduta la linea, perché tra l'altro poi l'accento parmigiano sapete che ho un debole, quindi ci avrei chiacchierato volentieri. Insomma, ho trovato inspiegabile veramente questo intervento, anche se per carità tante teste e tante idee. Enrico, provincia di Verona, a proposito, buongiorno. Buongiorno signor Garanzini. Mi dica. Io è vero che Moratti ha tantissimi avvocati, ma mi ci vorrei aggiungere per un commento e poi magari lei mi dice cosa ne pensa. Indossi la toga, Enrico. Esatto. Io volevo solamente dire che leggendo qua e là, insomma, ho letto anche di qualcosa che riguarda la vendita sul mercato azionario della Saras di Moratti, che avrebbe dato, diciamo, d'accordo con le banche collocatrici, una plusvalenza di oltre 1.000 miliardi, con i quali si dice Moratti abbia pensato bene di ripianare un po' di debiti che aveva gestendo l'Inter. Se in effetti questo poi risultasse vero, che Moratti non abbia bisogno poi di tanta gente che lo prende in giro perché un po' ingenuo o poco, diciamo, tra virgolette furbo, ecco, insomma, penso che sappia quello che fa e anche come trovare i soldi da spendere per la sua squadra, insomma, ecco. Volevo un commento. Il commento è che se tutti gli avvocati difensori sono come lei, perlomeno sul piano dell'immagine non lo vedo benissimo il presidente dell'Inter, e quindi chissà che non ce ne siano anche perché di meno, come dire, realisti, di meno pragmatici, ma insomma di un po' che seguono magari una linea difensiva diversa. Ancora Marco, no, un attimo prima, ascolterei un'altra vigilia, per esempio quella di Del Piero. La squadra, come da sempre è stato ripetuto da tutti quanti noi, è pronta per affrontare entrambe le competizioni, ha una rosa ampia per affrontare tutte e due le competizioni, certo. Personalmente non avevo mai tagliato fuori il Milan dalla lotta per lo scudetto, quindi come anche da loro precisato più volte come primo obiettivo stagionale, credo che se da una parte è stato fermato il Milan, sì, l'Inter, dall'altra c'è la conferma che il Milan sta passando un buon momento dopo le prime settimane un po' così di crisi, non mi sembra la parola esatta, ma di mancanza di risultati. Ancora un ascoltatore a chiudere, Marco, e di nuovo da Verona, buongiorno. Buongiorno. Dica. Niente, io volevo parlare dell'aggressione ai tifosi del Chievo. Sì. Io non ho seguito, non so se ne avete parlato all'inizio o ieri. Ieri sicuro. Di questo. Bastava solo scortare i tifosi in autostrada come fanno in molti stadi, in molte città d'Italia, e questo non sarebbe successo. Cioè, non riesco a capire come in una città come Catania possa succedere questo. Cioè, erano in un pulmino. Poteva succedere qualcosa di molto, molto più grave. Assolutamente sì, c'è stato un via libera, leggo nel comunicato del Chievo, via libera della questura, potete andare, la scorta non serve, qui non succede niente, invece qualcosa è successo. E poi questa replica catanese secondo cui non c'è nessuna responsabilità riconducibile alla tifoseria e si è trattato di un atto di pura delinquenza. Anzi, secondo il Catania, proprio un rappresentante del tifo catanese sarebbe stato poi l'artefice della soluzione della vicenda, di un ridimensionamento di questo scontro che minacciava di degenerare. 20 secondi, un messaggio firmato Davide Lera da Brescia. Non le sembra che Shevchenko in questi giorni abbia la stessa ossessione di Fantozzi quando era stato ricomprato a trance dalla Pina nella pescheria dopo che era scappato di nascosto a Capri con la Silvani? Effettivamente. Ho ricevuto tante mail in questi giorni, questa è di quelle divertenti. Buon pomeriggio a tutti, grazie a Flavio Suardi in redazione, a Filippo Aureggi in regia, Giornale Radio.